sono tre le offerte o almeno tre i soggetti che si sono espressi in termini, diciamo, espliciti, ma ci sono altri due soggetti, sono due multinazionali, una cinese e una indiana, che hanno fatto accesso alla data room e aspettiamo che si esprimano. I cinesi ancora non hanno un volto, si parla, potrebbe anche essere un'azienda di Stato, però credo che sia preso per fare indiscrezione perché ancora non hanno un volto. Gli indiani il volto ce l'hanno, ma hanno chiesto ancora di mantenere la cosa riservata ed è una grossa multinazionale. Allora, premesso che chi durante le manifestazioni trascende e si lascia andare a atti di violenza e cose di questo tipo è sempre da condannare, però la questione non è e non può essere derubricata a un problema di ordine pubblico. Qua c'è un problema di occupazione, c'è un problema di disperazione ed è quello l'argomento principale. Il governo si occupi di quello e poi non ci sta il problema di ordine pubblico. Non può pensare di, come dire, di lamentarsi per una manifestazione o perché i lavoratori ritengono di dover manifestare in piazza il proprio disagio. Si parta da quel disagio, si parta dalla causa, non dall'effetto.